avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Non so nemmeno perché mi sono avventurato in questa trasmissione stamattina, ma secondo me un senso ce l'ha. Oggi vorrei parlare della Libia. Non vorrei parlare dell'attualità, non perché non sia interessante, non sia senz'altro degna di attenzione, ma perché ne stanno parlando tutti i giornali. Molto semplice capire quello che sta accadendo, anche se poi è relativamente semplice. Ci chiediamo come mai in un'epoca in cui sembrava che tutti fossimo sott'occhio di tutti, ancora esistano delle zone d'ombra in un territorio così vicino come quello della Libia. Però vorrei parlare di un'altra contiguità, di un'altra vicinanza. Una vicinanza non è soltanto geografica, ma è una vicinanza stratificata nel nostro ricordo. Io personalmente ho ricordi molto precisi della Libia, non perché sapesse esattamente cosa fosse o perché alcuni dei miei compagni di prima elementare fossero nati a Tripoli, ma avevo questa idea di questi ragazzi che comunque mi raccontavano di Tripoli. Perché? Perché nella città in cui stavo io, Perugia, nella periferia esisteva un quartiere costruito apposta, chiamavano le case popolari, dove erano state portate un numero considerevole di famiglie di origine veneta, si chiamavano Gradin, Tognon, me li ricordo, uno era il figlio del sagrestano, l'altro poi faceva il carrozziere, erano dei simpaticissimi ragazzi, però le loro nonne, che erano sempre molto particolari, erano diverse, le vedevo, c'era qualcosa di diverso. Perché? Perché venivano dalla terra d'Africa. C'erano questi ricordi di Africa, mi raccontavano cose fantastiche, non capivo perché avevo questi compagnucci di scuola che venivano dall'Africa. Poi più tardi capii, più tardi poi venne l'idea di questa particolarità che avevamo proprio vicino, molto importante per noi dal punto di vista della fornitura energetica, ma anche fonte di parecchie tensioni o parecchie contraddizioni. In tutti gli anni 70 il leader libico Gheddafi, che parte terrorizzava per le sue continue minacce, a un certo punto arrivarono anche dei missili in Italia, fummo bombardati da dei missili perché temevamo l'attacco di Gheddafi, per altri invece era una sorta di paladino di una nuova maniera di gestire l'esistenza. Uscirono dei libri dalle parti di Padova, editi da un editore di estrema destra, intitolati Gheddafi, il templare di Allah. E ci fu una serie di studenti, quel tempo girava con il libretto verde di Gheddafi, perché Gheddafi era considerato qualcosa di alternativo, qualcosa di contrario a una sorta di logica politica che non veniva condivisa perlomeno da quei ragazzi. Poi andando avanti siamo arrivati ai tempi nostri, Gheddafi è diventato quel signore dai capelli tinti che spesso giornalisti titolati vanno a intervistare in quelle tende che sembrano fatte con i mattoncini del Lego policrome, e poi vengono rieditate queste interviste, le abbiamo riviste tutte ripubblicate come se avessero attualità, come questo signore dentro la tenda, quando si sposta con il suo seguito di beduini, di tende, di cammelli, e poi ultimamente con le amazzoni, donne bellissime, improvvisamente rivoluzionario, il lanciatore di missili, il guerriero di Allah, diventa il sottile ispiratore di riti da harem, Gheddafi legato al bunga bunga, e poi siamo arrivati adesso. Gheddafi che parla seduto in una macchina sotto l'ombrello, che ha molto poco di rivoluzionario, molto poco di templare, molto poco di guerriero. Gheddafi con un colbacco in testa che minaccia, che tiene ancora in mano l'idea che lui possa fare chissà cosa. Ma tutto questo fa parte dell'attualità, tutto questo fa parte di una percezione superficiale. In realtà gli italiani con la Libia hanno avuto un lungo e profondo rapporto, un rapporto legato all'idea della colonia, un rapporto legato in tempi più recenti all'idea di un lavoro in un paese vicino che comunque offriva delle possibilità. In questa mattinata molto particolare vorrei chiedere agli ascoltatori, a quelli che in questo momento ci ascoltano, qual è il loro personale ricordo, ricordo che li ha lambiti, come io ho raccontato il mio, rispetto alla Libia. Ma tanto per dare l'idea, inizio con un ricordo molto lontano, con il ricordo forse legato al periodo più controverso, quello di cui oggi si possono senz'altro tenere tranquillamente, serenamente le distanze dal punto di vista della non più adeguatezza storica a quel periodo. Abbiamo preso da YouTube, che è diventata la nostra fonte comunque, in cui sedimentano ricordi che altrimenti non troverebbero facile maniera di attingere, se fossero scritti su libro, persone da cercare. Ernesto Susigan è un signore che nato a Jesolo nel 1935, nel 38 era ancora bambino, seguì la sua famiglia, partecipò alla spedizione dei 20.000 coloni in Libia destinati appunto al villaggio Cesare Battisti. Nel dopoguerra naturalmente ritornò in Italia, fu ospite del campo di raccolta profughi di Tortona e probabilmente molti dei ragazzini che avevo accanto nel banco nella mia scuola elementare avevano seguito lo stesso destino. Si è fatto un programma di mandare 20.000 persone per 5 anni in Libia. Sei mesi prima di mandare i coloni sono stati predisposti i mezzi per costruire i villaggi che potessero accogliere 1.800 famiglie con 20.000 persone. Le famiglie dovevano avere determinate caratteristiche, che essere iscritte al partito fascista, essere famiglie numerose, formate da diverse persone, ci devono essere dei figli che erano adatti per il lavoro nella È singolare, non me l'aspettavo, ma ho già subito una telefonata. Cristina, buongiorno. Buongiorno. Lei è nata in Libia? Io sono nata in Libia, mi contenga. Io di solito faccio esattamente l'opposto di contenere le donne, quindi si lasci pure andare. No, mi interessa perché avevo come l'intuizione che esiste un sommerso, esiste un immaginario, sei così legato ai miei ricordi che in fondo nulla ho avuto a che fare con la Libia, ci saranno delle persone comunque in questo momento particolare vedono la situazione sotto un occhio diverso, mi sembra di capire lei è una di queste. Sì, io sono nata in Libia e diciamo io sono di quelli nati a Tripoli, perché veramente ci sentiamo qualcosa di diverso, sono anche emozionata a parlarne. In che anno è nata lei? Io sono nata nel 53. Ah beh, perché abbiamo la stessa età. Sono figlia di un centese della provincia di Ferrara, che un ragioniere che si ribellava agli orari della banca e con una moglie, giovanissimo, con una moglie a 100, decise di andare a mettere su un commercio di pezzi di ricambio a Tripoli nel 39. Questa moglie poi morì e mio padre sposò l'attuale mia madre, che era una maestra in un villaggio di coloni. Sempre italiana? Sempre italiana, siciliana. Io ho fatto fino alla terza liceo a Tripoli e avevo compagni anche libici e di tutto il mondo, diciamo. Ho avuto compagni americani, jugoslavi, palestinesi, libanesi. Ecco, qual era, diciamo, se è possibile dare una tipologia dell'italiano che al tempo, da come lo racconta lei, sembra quasi che... Non eravamo dei colonizzatori. No, infatti, non eravamo. L'idea mi sembra come oggi uno che dice lascio tutto e vado ad aprire un bar nei mari del sud. Esatto. Il suo papà ragioniere che è andato a aprire il negozio di pezzi di ricambio a Tripoli, era l'idea di una grande avventura. Certo, era l'idea di una grande avventura. Mio padre aveva questo spirito imprenditoriale e negli anni 60 ebbe in appalto la nettezza urbana di Tripoli. Tripoli era una città a quell'epoca pulitissima, venivano da tutto il mondo, ci fu anche un articolo sull'Europeo, su Tripoli e su come Tripoli veniva tenuta pulita da questa impresa italiana. Stiamo ancora parlando prima del 69, cioè prima della rivoluzione. Stiamo parlando prima del 69. Ecco, lei invece quell'anno lo ricorda, l'anno della rivoluzione. Quell'anno, lo ricordo, per me fu tragico, ma fu, diciamo, una prosecuzione di quello che era stato già un cambiamento al tempo della guerra dei 5 giorni di Israele tra Israele ed Egitto. Perché lì ci fu la svolta. Sì, diciamo, è stata una catena di fatti. Ecco, rispetto alle immagini che oggi vede in televisione delle città della Libia, di Tripoli devastate, diciamo, dai moti, da quello che non si capisce bene esattamente cosa accada. Ecco, qual era la differenza rispetto a allora? Dunque, guardi, io vedo una città molto cambiata perché vedo, sì, dei palazzi che non... Io ho guardato anche su YouTube, su Google Earth, cerco la mia casa, da tanto che cerco la mia casa non la rivedo, insomma. Nelle mappe di Google però dove trova la sua casa? Devo dire che purtroppo vedo che la gente non è cambiata, mentre c'è da dire questo, che quando c'eravamo noi, prima che intervenisse Gheddafi, c'era certamente un regime corrotto, il regime della monarchia era un regime corrotto, però stava facendo delle grandi cose, non era corrotto come è stato più corrotto Gheddafi, e stava facendo delle grandi cose perché impose a tutti gli imprenditori italiani di avere un socio libico. Nelle scuole italiane c'erano i libici da sempre, perché io mi ricordo dei miei zii che avevano frequentato il liceo italiano e avevano degli amici libici. Allora, si fermi solo un secondo, Cristina. Resti in linea, questa mattina la terrò come ospite di supporto, perché sta definendo un aspetto che non è emerso con questa chiarezza nei giornali oggi. Sembra che ci sia una manichea di visione nell'atteggiamento fra gli italiani e i libici, quella basata sull'aspetto colonialista, e tutto ciò che riguarda comunque rapporti di qualsiasi tipo rientra in quest'area limacciosa del post-fascismo. Ma lei, oppure l'atteggiamento antagonista, atteggiamento critico, è quello che oggi è più palesemente percepibile. Lei mi sta mostrando una fase intermedia, una fase di una Libia che è poco conosciuta. Questa mattina avevo pensato a una collega, un'amica che avevo chiamato in studio, che mi poteva dare supporto, e adesso la chiamo in causa. Sarina Biraghi, buongiorno. Buongiorno. Sarina Biraghi è caporedattore del Tempo, quotidiano romano, ha vissuto in Libia dal 79 all'84, in particolare oggi sul suo giornale ha un'interessante intervista esclusiva a Shem El Senussi, che è nipote del re Idris, che è quello che sarebbe in teoria l'erede al trono se si restaurasse la monarchia in Libia. Allora, Sarina, partiamo dalla tua intervista prima. Te, in quanto non ex cittadina, abitante della Libia per un periodo lungo della tua vita, quale fu l'occasione per cui tu sei andata in Libia, rispetto anche all'esperienza della signora Cristina che ci ha chiamato? Allora, io sono andata in Libia nel 79, avevo 21 anni, ero appena sposata e mio marito era un ingegnere, direttore dei lavori di un aeroporto militare nel Fezzan. Noi stavamo a 100 km da Seba, in particolare a Brak, ovvero nel deserto. E io direi che il mio ricordo libico è, io ho una nostalgia per la Libia. Tu sei tornata più volte? Io sono tornata 3 anni fa in Libia, per la prima volta da quando sono rientrata, e per me è stato un tuffo veramente di nuovo a 20 anni prima. Ero molto giovane, ero appena diventata madre, io sono andata giù con una bambina di 1 mese e mezzo. Tua figlia quindi ha studiato le prime scuole? No, mia figlia è stata lì fino alla scuola, all'asilo praticamente, andava con i bambini. E per me quindi è stata un'esperienza molto particolare. Peraltro io ho avuto, feci venire mia madre in Libia e mia madre è morta in Libia. Quindi per me la Libia è uno spicchio della mia vita e la Libia è nel mio cuore, non si toglierà mai. Ma esisteva ancora un'idea, anche se storicamente e razionalmente superata, che lì ci fosse un pezzo dell'Italia? Assolutamente sì, assolutamente sì. Io ricordo tutte le persone che io ho conosciuto a Brak, in particolare i negozianti, i commercianti, avevano un rispetto e un ricordo degli italiani fortissimo, cioè per loro gli italiani erano quelli che li avevano aiutati a fare le strade, a fare le case, cioè avevano rispetto degli italiani. Ecco, si può scindere questo rapporto, diciamo, di solidarietà reciproca da quello che è lo strascico colonialista? Perché se adesso dici queste cose tu dicono, ah, vedi, nostalgica delle colonie, nostalgica della vessazione, i risarcimenti, che gli italiani poi hanno fatto anche schifezze terrificanti in Libia. Non vogliamo con questo sottacere le stragi, i gas, le impiccagioni, le repressioni fortissime. Però a parte questo, quello faceva parte della conquista, della guerra, esatto, direi. Quindi quello era nei fatti. Come adesso l'ipotesi di mettere fine a una dittatura provoca sangue, inutile, cioè inutile negarlo. Infatti, non per niente. Il titolo del tuo giornale oggi è Basta sangue, che Gheddafi si consegna. Raccontami l'incontro con questo principe. Hashem è molto sofferente, direi, perché lui soffre nel vedere questo suo popolo che sta appunto perdendo tanti giovani, perché sono i giovani quelli che stanno morendo. Lui, la dinastica, chi è esattamente? È il nipote di Idris, il re che venne deposto dalla rivoluzione giovane del 69. Gheddafi nel 69. E lui dice anche parole molto gentili nei confronti di Gheddafi, perché lui dice: Gheddafi con noi è stata una persona onesta, ci ha mandato in esilio, non ha fatto nessuna ritorsione verso la famiglia reale, quindi ci ha concesso di andare via, nessuno ha avuto problemi. E per questo lui dice: anche oggi io chiederei che lui si mettesse da parte, la finisse di uccidere questi giovani, si consegnasse alle autorità, in particolare agli americani. Già ieri sera si parlava di questa ipotesi di esilio, perché almeno ci possa essere un altro governo. Hashem non parla di monarchia, lui è convinto. Mi sembra un'ipotesi abbastanza lontana, una restaurazione, direi, una restaurazione monarchica è un po' difficile. Lui dice che sarà il popolo a decidere, il popolo con elezioni vere, e ci tiene a sottolineare elezioni vere diverse da quelle dell'Egitto, con gli osservatori internazionali. Ecco, lui è figlio del Re Nero. Chi è questo personaggio? Il Re Nero, perché la madre di Hashem, la nonna era nera, quindi suo padre era nero, era il figlio di Idris, e quindi è soprannominato il Re Nero. Quando morì, ci fu in Libia, Gheddafi fece anche un giorno di festa, perché Gheddafi usava così. Io mi sono trovata in Libia quando morì il successore di Nasser, che era nemico di Gheddafi, e ci fu un giorno di festa, le macchine, fermavano le macchine per strada e sparavano in aria per la gioia. E quindi lui è assolutamente la prima cosa che farà nel momento in cui Gheddafi si consegnerà e quindi non ci sarà più, rientrerà in Libia, perché anche questa persona che vive in Italia dal 69 e che ama l'Italia, è sposato con un'italiana, il suo cuore è in Libia. La prima cosa che farà è rientrare. 800 24 00 24. Mi sembra chiaro il contesto, è un elemento in più, un elemento integrativo rispetto a quello che questi giorni state leggendo sui giornali, l'informazione quotidiana sui fatti in Libia. Quello che stiamo cercando di ricostruire stamattina è un rapporto un po' più profondo, lievemente, fortemente compromesso da quello che è il passato pesantissimo storico della colonia, del fascismo e tutto ciò che gira intorno comunque a questo termine, ma è fortemente sentito, vivace. Sentiremo in seconda parte anche rappresentanti di un'associazione italiana rimpatriati in Libia, quindi esistono rapporti complessi, articolati e non sempre così celebrati e raccontati tra Italia e Libia. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. La mia famiglia è originaria della provincia di Treviso. Pensate, che fittavoli che andavano dove c'era il lavoro. Hanno trovato lavoro a Jesolo e sono andati lì. Alla sera del 28 ottobre del 1938, 9 navi sono partite dal porto di Genova, con in testa la nave pilota, diciamo, ad ammiraglia, la Vulcania, sulla quale era imbarcato anche Ito Balbo. E si sono messi in movimento per andare a incontrarsi con le altre con le altre navi che partivano, altre 5 navi che partivano dal porto di Napoli. Poi si sono riunite e insieme poi sono state ispezionate al largo di Gaeta dal Benito Mussolini. 800 24 00 24, stiamo parlando del rapporto tra gli italiani e la Libia, un rapporto che ha in sé la grossa ipoteca del giudizio della storia, ma in realtà è molto più articolato, molto più diversificato, molto da raccontare rispetto a ciò che già è stato detto. E questa mattina mi piace raccontarlo dalle vive voci degli ascoltatori, stanno telefonando in tantissimi. Quello che abbiamo sentito è un signore, classe 1935, Ernesto Susigan, che ha lasciato su YouTube il suo ricordo della famosa spedizione dei 20.000, i coloni mandati in Libia destinati a un villaggio che dovevano appunto colonizzare, portare lavoro e operosità, come si diceva al tempo, in quella terra. Tra i tanti che stanno chiamando, cominciamo con Guido Hassan. Buongiorno. Buongiorno. Nato a Tripoli e vissuto la sua infanzia a Tripoli. Nato a Tripoli e vissuto alcuni anni a Tripoli, poi sono venuto in Italia. Quando è venuto in Italia? Nel 42. Ma tutta la mia famiglia è rimasta lì, sempre. Ma io volevo, a parte il fatto che io poi sono tornato nel 50 e sono rimasto ancora un paio di anni, ma volevo affrontare solo uno dei vari aspetti. E l'aspetto che mi interessava era questo, la situazione degli ebrei in Libia. Gli ebrei che erano presenti oltre 2000 anni fa in Libia. Sì, è vero, c'è una comunità molto forte, certo. Ecco, gli ebrei che erano lì. Volevo rammentare una cosa, mentre con gli italiani c'è stata una forma di odio per le questioni dell'invasione, eccetera, eccetera, gli ebrei non hanno fatto proprio nulla, però gli ebrei erano odiati come e più degli italiani. Questo in che periodo? Nel periodo totale, cioè io parlo sempre di quando ero lì e fino ancora al giorno d'oggi. E questo pur essendoci molti casi in cui c'erano delle grandi amicizie e tutto quanto. Questo per dire che noi c'erano ebrei italiani in Libia ed ebrei libici e sono stati cacciati tutti e tutti hanno avuto la requisizione di tutti i beni, compreso noi con la nostra famiglia. Quindi lei dice nel momento dell'esodo, cioè della fuga, la necessità di andarsene, gli ebrei erano doppiamente perseguitati. Certo, perché rappresentavano l'Italia, perché noi eravamo sempre col cuore verso l'Italia. Noi, a parte che la mia famiglia, mio padre è italiano, mio nonno addirittura erano italiani, i miei nonni, ebrei di Tripoli. E noi Hassan, quindi siamo Hassan ancora di secoli e secoli indietro in Libia, quindi c'eravamo molto prima dell'Italia. Ma questo per dire quanto eravamo odiati noi sia come ebrei e sia come italiani. Ecco, l'odio poi come si concretizzava in azioni concrete? In tutti i modi, cioè nel senso di essere messi a parte, di non essere, non far parte, di sentirsi di non far parte di queste persone. Io dico questo, le dico solo una parola e la dico così almeno si comprende subito il concetto. Io ho vissuto in Italia, sono venuto nel 42, ho subito anche le razzie degli SS e compagnia bella. In piene leggi razziali. E quello che mi è rimasto sempre nell'orecchio è che quando sono arrivato a Tripoli, avevo 13 anni, mio parente mi ha detto andiamo a fare una passeggiata nel corso e poi mi dice guarda Guido, se ti sputano in faccia fai finta di niente. Come faccio finta di niente? Io italiano mi sentivo una persona libera e faccio finta di sì, niente, io vado alla polizia. E lui mi dice se vai alla polizia ti mettono anche dentro. E ecco questo per dire la situazione che noi viviamo, che vivevamo normalmente. Grazie Guido. Karima, buongiorno. Buongiorno, io sono figlia di un libico sposato con un'italiana. 36 anni, quindi sì, 36 anni, sono nata in Libia, a Tripoli. E la mia infanzia l'ho trascorsa lì fino a 12 anni, fino a 86. E ci siamo poi fuggiti letteralmente in Italia dopo il bombardamento degli americani. Insomma, io volevo. Sono un po' emozionata. La sto a sentire con attenzione. Volevo parlare ecco del mio vissuto, della mia infanzia, che c'ho un ricordo bellissimo. Perché io ho vissuto proprio da libica, perché adesso è come venuta in Italia ho cambiato, girato pagina. E qual è la differenza vivere da libica, come dice lei? Vivere da libica proprio, ho vissuto molto nella famiglia, in mezzo a tanti cugini, il calore, non so, delle feste, dello stare insieme tutti insieme. E che feste erano? Matrimoni, l'Eid, tutte le ricorrenze religiose, forse con un po' di preoccupazione da parte di mia madre che non si è mai integrata totalmente, però ecco. Ecco, oggi si parla molto delle condizioni delle donne subordinate, subalterne e ancora peggio, vessate, maltrattate in situazioni in cui l'aspetto religioso detta anche regole di vita. Lei la ricorda così oppure la ricorda no, in maniera io diversa? Io ho un altro ricordo, forse adesso inizio a vederlo con occhi nuovi, quella realtà, però io ho vissuto sempre Ma con gioia, ecco, la mia infanzia deve essere stata molto gioiosa. Ecco, Sarina Biraghi, l'ospite in studio, caporedattore del Tempo, ricordo che ha vissuto in Libia dal 79 all'84, oggi per il suo giornale ha intervistato in esclusiva Hashem El Senoussi, che sarebbe il nipote di Re Idris, il probabile, ipotetico, ma non sarà mai così, pretendente al trono della Libia. Le parole di questa ultima ragazza libica, rispetto alla tua esperienza, sembra singolare alla luce di quello che oggi si vede in paesi fortemente islamizzati, una donna che dica che sente con nostalgia quel tipo di vita. Vediamo te da giornalista se ci riporti a una realtà. Ma guarda, io condivido totalmente le parole di questa signora, perché io non ho mai vissuto a Tripoli, ma ho vissuto a Brak, nel deserto. E Brak era un piccolo centro dove io mi ero perfettamente integrata con le donne del luogo, e devo dire, ho vissuto come ha vissuto lei. Come portavi il velo? No, portavo il velo a volte. Com'è nella regola normale islamica? La donna si vela in certe occasioni. Esatto, però io vestivo, intanto portavo sempre pantaloni, portavo maglie mezze maniche, non ho mai ostentato minigonne o vestiti scollati. E ero spesso ospite la sera a casa di libici. Mio marito andava nel salone con il libico, io andavo con le donne nella sala con le donne, e devo dirti che questi incontri con le donne, con i bambini, c'era sempre questa fase gioiosa. Ho partecipato a matrimoni, ho partecipato alle feste religiose, ho partecipato ai funerali. E perché oggi abbiamo un'idea soffocante dell'Islam, perché l'integralismo di cui abbiamo traccia e testimonianza è qualcosa di soffocante. I guardiani della rivoluzione vanno per strada e ti frustano se ci hai scoperto una caviglia, ma in realtà questa è la realtà. Questa era la realtà, la quotidianità di un posto normale dove quando io dicevo, prendevo il mio pick up e andavo al mercato a fare la spesa, molti libici, io mi lamentavo, dicevo ma mi guardano tutti, mi chiedono, mi parlano. Alcuni libici anziani mi dicevano: perché ci vai? Non ci andare, mandaci tuo marito. E io dicevo: no, io ci voglio andare perché voglio vedere. Però devo dire che a me non è successo mai nulla. Nessuno si è mai azzardato a toccarmi o nessuno mi ha mai maltrattata, assolutamente. Mi hanno sempre rispettata. Certo, mi guardavano con un po' con ammirazione, un po' probabilmente non avrebbero mai consentito alla loro moglie di fare quello che facevo io, questo è vero, però consentivano alla loro moglie di avere rapporti con me. Questo, ecco, significa che ero integrata perfettamente. Per la tua esperienza e per il tuo mestiere, Sarina, tu vedi probabile una svolta integralista in Libia, che è una delle tante preoccupazioni che in questo momento ci coglie? Ma punto di vista proprio dell'aspetto religioso? Dal punto di vista dell'aspetto religioso, io credo che questo sia un grosso rischio, perché altrimenti non... Gheddafi ha sempre proclamato il rispetto del Corano, e quindi comunque l'Islam per loro esiste. Un integralismo è rischioso, perché secondo me si parla di questi giovani di Bengasi, ma a me lasciano molto i sospetti queste rivolte. Io credo più a una rivolta di palazzo, cioè a scontri interni, faide interne di tribù che si stanno stanchi probabilmente di stare sotto. Perché è molto articolato, l'aspetto tribale è fortissimo. L'aspetto tribale è fortissimo. Quanti sono i grossi ceppi, diciamo? Le grosse tribù sono 4, poi ci sono molte sottotribù. Gheddafi ha accontentato un po' tutti, ma non tutti sono contenti, ovviamente. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Le famiglie lì hanno trovato una casa. Una casa colonica, ma ben fornita, perché aveva due o tre stanze da letto, c'era la cucina molto, molto, molto grande, c'era la stalla, c'era un portico, c'era di tutto praticamente. Ho trovato anche le vettovaglie per una settimana di pernottamento. Dopodiché, nei giorni seguenti, poi sono subentrati gli uomini dell'ente della colonizzazione, che li hanno presi in carico. Continua il racconto del signore che da bambino andò alla spedizione di italiani coloni in Libia. Vedo che anche su Facebook sembra singolare. Stamattina, come sempre faccio perché sono di natura pessimista, non davo 2 lire a questa trasmissione, pensavo parlo di qualcosa ormai talmente seppellito nel ricordo di persone anziane che forse nemmeno vale la pena di parlarne. Invece no, mi rendo conto che in questo momento esiste un segmento di italiani che hanno avuto comunque un rapporto con la Libia che non è rappresentato in generale l'informazione che si dà, un po' perché si ha sempre paura di andare a toccare terreni pericolosi. Io potrei essere accusato questa mattina di dare la stura alle nostalgie coloniali, ma in realtà non è così. C'è una fase intermedia che passa dal nostalgico colonialista all'arrabbiato irrazionalmente nemico di ogni contatto promiscuo con la Libia, che vale la pena comunque di rappresentare. Ricordo che ho in studio Sarina Biraghi, che è caporedattore del quotidiano Il Tempo, che ha intervistato il nipote di Re Idris, il presunto pretendente al trono della Libia. Abbiamo tantissimi ascoltatori, sentiamo Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. La sto ascoltando. Allora, io ero un impresario edile e nel 77 avevo seguito un po' tutta questa richiesta che la Libia faceva per costruire quello che gli egiziani avevano abbandonato essendo stati cacciati. È stato un anno di buoni affari, diciamo quello. Sì, diciamo buoni affari, ma soprattutto anche di opportunità, perché per noi in Italia era diventato un pochino difficile per tante ragioni. Ecco, io ho cominciato questo lavoro, ho portato giù 60 operai italiani e altri li avevo trovati lì nella zona, tra turchi, siriani e cose del genere, fino a che al 23 di marzo, dove stavamo costruendo, è entrato il colonnello e ci ha mandato via, ha demolito tutto e noi ci siamo dovuti arrangiare, perché poi alla fine io non sapevo più cosa fare con questo contratto che... E a lei cosa è successo in particolare? A me è successo che a un certo punto, quando poi sono rimasto da solo, ho vissuto per 499 giorni per cercare di recuperare il mio credito, anche perché non mi davano il visto d'uscita. E c'è riuscito? Ci sono riuscito in maniera un po' rocambolesca, cioè mi hanno offerto una persona particolare del nostro consolato, hanno messo il mio passaporto in mezzo ai 14 marinai di Mazara del Vallo che erano stati sequestrati, mi hanno dato il timbro e io sono partito per l'aeroporto e così sono arrivato a casa. È stato sequestrato, diciamo, 479 giorni, e leggo che ha scritto anche un libro su questa sua avventura. Però lei solleva un problema che forse può sinteticamente rappresentarci meglio. Giovanna Ortu. Giovanna Ortu, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Io l'ho tenuta sadicamente ma volontariamente in ascolto all'inizio della trasmissione perché volevo che anche lei sentisse quella che è stata l'improvvisa e devo dire non preventivata reazione del nostro pubblico. Giovanna Ortu è presidente dell'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia, costituita nel 72. In questo particolare momento voi come vedete la situazione generale? Qual è il vostro punto di vista? Il nostro punto di vista è anzitutto di ansiosa partecipazione alle vicende del popolo libico, che paga oggi un prezzo più alto di quello che abbiamo pagato noi quando nel 70 siamo stati cacciati in spregio di un accordo internazionale, in violazione di un accordo internazionale, ma abbiamo avuto salva la pelle. La pelle, ma nessun risarcimento dal punto di vista dei vostri beni? Purtroppo no, né dai libici, ahimè anche dall'Italia, che ha preferito risarcire Gheddafi, il quale già, diciamo, dato che già la Libia aveva avuto i risarcimenti per il periodo coloniale nel 1956. Ma avete fatto un conto generale quanto avete lasciato, certo, di vostro? Noi abbiamo lasciato beni per 400 miliardi di allora, che rivalutati ad oggi ammontano a 3 miliardi di euro, che noi non pretendiamo, perché noi comprendiamo benissimo di esserci sacrificati, come è venuto alla luce anche recentemente, in quanto Arturo Varvelli nel suo libro riuscì riuscito a trovare dei documenti della Farnesina dai quali proprio risulta che noi siamo stati sacrificati sull'altare degli interessi dell'ENI e della Fiat. Per la ragion di Stato, diciamo. Certo, noi siamo italiani prima che diciamo. Mediamente come è stato difficile ricostruire delle vite? Io immagino che a un certo punto togliessero il lavoro, la famiglia, la casa e tutto, si ritrova sì in una terra patria d'origine ma senza nulla, con una mano avanti e una dietro. Certo, e abbiamo avuto soltanto ci hanno trasformato tutti in fattorini delle poste, perché abbiamo avuto dei privilegi nelle assunzioni di gruppo C, qualcuno ha avuto, noi per esempio avevamo delle aziende agricole in Libia e abbiamo avuto dei prestiti che sommati a quelli più generosi che ci hanno fatto i nostri parenti benestanti in Italia ci hanno permesso di ricostituire questa cosa. Ecco, la sua famiglia cosa ha lasciato in Libia? In patria, come dice? Cosa ha lasciato la sua famiglia in Libia? La mia famiglia ha lasciato tutti, mio padre è andato a Tripoli nel 14, delle aziende agricole e anche dei fabbricati in città, ma io volevo dare una nota personale. Lei stamattina mi ha fatto piangere, io ho 20 anni che l'ascolto dai tempi di Golem, ma questa mattina ho ritrovato un'atmosfera amichevole, infatti prego Cristina Tassinari alla fine della trasmissione di mettersi in contatto con me, con Hashem, io mi scambio degli sms trepidanti notturni, perché io ho ritrovato negli amici libici che attualmente sono in Italia o in Europa un feeling incredibile, sono riuscita pure a ristabilire i contatti telefonici. Si fermi un attimo, c'è qui Angelo che vuole parlare. Angelo, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti. Senta, io volevo intervenire perché anch'io sono un po'... Sono sommerso da libici che vogliono parlare. Pronto? Sì, no, dico, sono sommerso da libici, non me l'aspettavo e sta per finire la trasmissione, quindi lascio a lei, Angelo, la parola. Può parlare, pronto? Angelo? Sì, sì, può parlare. Ecco, volevo dire che io sono uno nato lì nel 42, andato in Italia durante la guerra, ritornato all'età di 5 anni. Avendo vissuto in Libia fino alla confisca dei beni del 1969, e oltre al dramma che abbiamo vissuto noi italiani, io ho vissuto anche quello degli ebrei italiani che erano lì, una comunità enorme, sì, quando nel 67 ci fu la guerra dei 5 giorni e ci furono delle cose allucinanti e di cui in Italia non si è mai parlato. E adesso noto la grande differenza, con piacere, del fatto che quando siamo stati mandati via noi italiani ci siamo dovuti preoccupare di trovarci il posto, pagarci il posto sulla nave e via di seguito, e il governo italiano è stato proprio assente. Adesso vedo con soddisfazione, ripeto, che manda i C-130, manda le navi da guerra a prendere i nostri connazionali che in realtà erano lì per lavorare. Diciamo che oggi ciò che accade è un po' sotto l'occhio del mondo in maniera molto più evidente e difficile. Sabrina Biraghi, solo una battuta, stiamo per lasciarci, giornalista del Tempo, anche lei vissuta lì per tanti anni. Te l'aspettavi questa reazione? No, non me l'aspettavo, però so che ci sono tanti italiani che stanno aspettando la fine di Gheddafi, di questo leone oramai ferito e direi solo, assolutamente solo e accerchiato, e per rientrare in Libia. Grazie Sabrina Biraghi, grazie a quelli che hanno partecipato, ci sentiamo domani. Tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.